Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, un team italiano e 3-4 vincitori del GHG Eco Imagination, il concorso internazionale lanciato da General Electric per premiare chi sviluppa nuove soluzioni nel settore dell'estrazione petrolifera al fine di renderla più sostenibile. In particolare la squadra del consorzio LIP di Piacenza, LIP sta per Laboratorio per l'Energia e l'Ambiente, ha proposto una soluzione per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la produttività del processo di estrazione del petrolio dalle sabbie bituminose canadesi. Parliamo in pratica di immensi giacimenti di catrame che una volta estratto viene trasformato in petrolio tramite un processo, il cracking, che richiede grandi quantità di vapore per produrre il quale si immettono altrettanto grandi quantitativi di CO2 in atmosfera che si vanno a sommare alle emissioni del petrolio una volta che verrà bruciato. Insomma, non è il massimo dal punto di vista ambientale, tuttavia siamo di fronte a una ricerca rilevante sia per la capacità proprio di ridurre questo impatto ambientale dell'estrazione di petrolio dalle sabbie bituminose, sia per le possibili ricadute anche al di fuori del settore petrolifero. Ne parliamo con Stefano Consonni, professore di sistemi energetici presso il Politecnico di Milano e presidente dell'LIP. Buonasera Consonni. Buonasera. Allora, senta, ci descriva in cosa consiste questa vostra innovazione per cominciare. Sì, l'innovazione consiste in una pompa di calore che è un sistema termodinamico non nuovo che costituisce il principio di funzionamento del frigorifero. Certo. Che milioni di italiani hanno in casa, certo. In casa, ovvero nell'estrazione di calore ad un certo livello di temperatura per cederlo, grazie a un ciclo termodinamico, a un livello di temperatura superiore. Perfetto. Nel frigorifero questo principio di funzionamento è utilizzato per mantenere freddi gli alimenti, certo, scaricando il calore in cucina, sul retro del frigorifero, nella cucina dove generalmente il frigorifero è ospitato. Nel nostro caso lo stesso sistema è stato proposto per prelevare calore di scarto che verrebbe altrimenti buttato via nell'ambiente e riqualificarlo in calore a media temperatura per la generazione di vapore. In questo modo è possibile ridurre il consumo di combustibili fossili associato all'estrazione delle sabbie bituminose, riducendo quindi quei consumi di energia associati alla produzione di questa risorsa di cui lei parlava nell'introduzione. Ho capito bene o tra poco potrete anche mettere alla prova il vostro lavoro sul campo? Speriamo di sì. Il concorso di idee prevedeva una fase 2 a valle dell'assegnazione del premio per approfondire e arrivare possibilmente alla realizzazione di un prototipo e questo è l'oggetto delle conversazioni che in queste settimane stiamo avendo con General Electric. Senta, io le confesso un po' il mio scetticismo, ma si sarà capito dall'introduzione, sullo sfruttamento delle sabbie bituminose che preferirei rimanessero lì dove sono. Perciò le chiedo, al di là comunque di questo campo di applicazione, ci sono altri possibili settori di applicazione per queste tecnologie, l'uso della pompa di calore, insomma, in un ambito industriale? Sì, allora, diciamo, a prescindere dalla fonte sabbie bituminose, che peraltro è una delle tante fonti di idrocarburi che abbiamo presente nel mondo e che come tali va valutata sulla base del caso per caso, lei dice. Sì, caso per caso, d'accordo. Certo. Il sistema da noi proposto a pompa di calore, che ha questa particolarità di utilizzare come fluido di lavoro una miscela acqua e ammoniaca, è un sistema che ben si presta a un qualsiasi processo dove sia disponibile calore a temperatura medio-bassa e al tempo stesso vi sia necessità di calore a temperatura maggiore, si presta all'applicazione del concetto di pompa di calore. Da questo punto di vista le caratteristiche del corpo che cede il calore e le caratteristiche del corpo invece che ha bisogno di calore sono importanti e proprio per questo l'idea nostra, cioè quello di proporre questa miscela di acqua ammoniaca, può essere interessante perché consente di accoppiare meglio i due processi. Cioè il tipo di scelta tecnologica che avete fatto voi è anche flessibile, diciamo così, potete, esatto, adattarvi a temperature e a situazioni diverse. Esattamente, cambiando il mix tra acqua e ammoniaca, la quale tra l'altro consente di avere buone prestazioni per i singoli componenti del ciclo, il compressore e gli scambiatori. Ok, beh, poi mi pare che voi operiate intorno, diciamo così, alla temperatura di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica, quindi insomma quelle sono temperature su cui si lavora tantissimo nell'industria, perché tantissime industrie per esempio usano il vapore, appunto. Sì, certo, certo. Siamo in un campo di temperature, diciamo, compreso fra i 70-80 gradi e i 200 gradi, che sono un campo nel quale si sviluppano tantissimi processi industriali, in una serie di industrie che possono andare dall'alimentare, all'industria della carta, all'industria chimica. Quindi potenzialmente esiste sicuramente una varietà di applicazioni, che vanno tuttavia verificate da un punto di vista di prestazione e di ritorno economico, certo, caso per caso. Come sempre, come sempre. Va bene, speriamo che succeda. Grazie Consonni. Prego, grazie a voi. Bene, ci fermiamo qui, ci diamo come sempre appuntamento a domani.